Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Le dirò il nome di alcuni oggetti e lei mi farà vedere dove sono. Le dirò il nome di alcuni oggetti e lei mi farà vedere dove sono. Montrez-moi où est l'enveloppe. Dov'è la busta? Dov'è la busta? Montrez-moi où est la clé. Dov'è la chiave? Dov'è la chiave? Montrez-moi où est le rasoir. Dov'è il rasoio? Dov'è il rasoio? Montrez-moi où est le verre. Dov'è il bicchiere? Dov'è il bicchiere? Montrez-moi où est le crayon. Dov'è la matita? Dov'è la matita? Montrez-moi où est le téléphone. Dov'è il telefono? Dov'è il telefono? Montrez-moi où est la montre. Dov'è l'orologio? Dov'è l'orologio? Montrez-moi où sont les ciseaux. Dove sono le forbici? Dove sono le forbici? Montrez-moi où est le peigne. Dov'è il pettine? Dov'è il pettine? Montrez-moi où sont les lunettes. Dove sono gli occhiali? Dove sono gli occhiali?